un limitato intervento naturalmente di carattere linguistico. Assumendo come titolo di questo mio intervento Popoli e lingue nella formazione dell'entità culturale atesina, partivo da alcune considerazioni e convinzioni che esplicito qui in pochi punti, che costituiscono la trama interpretativa di tutto il discorso. Primo, se consideriamo l'area atesina nel suo insieme, essa presenta, sino ad un'epoca abbastanza recente, una evidente unità di costume, di vita materiale, di atteggiamento morale, di tradizioni, di credenze. Secondo, questa unità si manifesta mediante tre diversi tipi linguistici: tedesco, italiano, ladino. Terzo, al formarsi di questa unità hanno contribuito in diverso grado e in diversi modi popoli differenti per appartenenza etnica e linguistica. Quarto, l'analisi del processo formativo non può prescindere dalla considerazione dei vari strati che vi hanno contribuito in diversi spessori temporali. Quinto, il gruppo ladino è quello che più direttamente si ricollega alle origini remote e costituisce perciò il punto di riferimento costante del discorso. So bene che con questa scelta mi espongo a due grossi rischi. Il primo rischio consiste nel dover presentare un quadro generale del contatto linguistico, quadro generale che può apparire generico perché la documentazione e discussione di molti fatti che costituiscono materia di note non possono apparire nella esposizione orale. Il secondo rischio che deriva dal primo è che così la materia travalica i termini cronologici assegnati all'argomento del convegno e che li travalica nel prima e nel dopo. Mi trovo quindi a navigare tra due scogli e non so se saprò essere un pilota sufficientemente abile. Perciò mi appello alla vostra tolleranza e pazienza. Se la cultura deve essere intesa come un sistema di valori in rapporto a specifiche situazioni e tradizioni, tentare di definire una entità culturale significa in primo luogo identificarne le stratificazioni. Ciò vuol dire, in prospettiva linguistica, considerare i dati formali, espressione di dati culturali, nella dimensione di strati, sostrato, superstrato, adstrato, nei loro diversi e complessi rapporti che tutti presuppongono situazioni di bilinguismo più o meno accentuato. Se quindi per entità culturale atesina intendiamo una fondamentale unità internamente variegata e articolata e parte di una più vasta entità culturale che chiamo entità culturale alpina, il rapporto tra romanità e germanesimo nell'arco alpino, con particolare riguardo all'area atesina e in una sezione temporale determinata, può configurarsi nel quadro globale di sostrato, superstrato ed astrato. Sarà quindi necessario muovere innanzitutto dallo stato etnico, culturale, linguistico più antico, pre-indoeuropeo, passare successivamente allo strato pre-romano, indoeuropeo, e infine allo strato romano e germanico nei loro rapporti, per determinare le forze permanenti di coesione e le forze innovative di trasformazione, nei modi e possibilmente nei tempi del loro agire. L'area atesina, intesa geograficamente come il bacino dell'Adige, è, come è noto, una tipica realtà plurilingue. In essa convivono oggi parlate bavaro-tirolesi, varietà dialettali trentine, le parlate ladine, il tedesco, l'italiano. Mentre le varietà trentine e tirolesi, avvertite dai parlanti come forme dialettali rispettivamente dell'italiano e del tedesco, le parlate ladine hanno, nella coscienza di chi le usa, il valore di lingua materna in rapporto e in contrasto con lingue seconde e genomi, il tedesco e l'italiano. Ma c'è dell'altro. Il gruppo ladino avverte più o meno chiaramente di rappresentare nella dimensione atesina una comunità differenziata, il che non vuol dire qualche cosa di diverso, di lontano dallo Stato, di opposto alla comunità più larga, ma significa individualità, individualità di storia, di costumi, di modi di vita, di pregi e pure di difetti. Il termine vuol definire piuttosto la coscienza di costituire in quest'area, e a mio avviso con qualche ragione, l'entità che direttamente si ricollega alle radici più remote della storia atesina. Se dunque assumiamo l'area linguistica ladina, e mi sembra legittimo il farlo, come la rappresentante più esplicita dei fenomeni di conservazione e o di innovazione, in relazione con le altre zone superstiti dell'alpino romanzo, avremo un punto di riferimento costante per individuare le linee evolutive delle forze a confronto e una base per una valutazione delle stratificazioni. Non intendo riprendere nei dettagli la cosiddetta questione ladina, che ha dato luogo a tanti dibattiti e ad accese polemiche. Oggi, nella prospettiva strutturalista, esso ha perso molto del suo interesse per i linguisti. Infatti, rimanendo su un piano strettamente storico, non abbiamo modo di stabilire in maniera inequivocabile se ci troviamo di fronte ad uno sviluppo autonomo del latino parlato da un sostrato retico o d'altra origine, diverso da quello gallico dell'Italia settentrionale, oppure se le tre aree ladine, aree arcaiche di tipo alto italiano, conservate nelle valli montane, si aggancino per la loro origine rispettivamente all'area lombarda, trentina, veneta. Vediamo dunque che è possibile rispondere in maniera antitetica alla domanda: le parlate ladine sono italiane? Non possiamo più ritenere che il criterio sicuro di delimitazione linguistica e quindi di definizione di una entità consista nel determinare un fascio di isoglosse. Il principio statistico che sta alla base di questo procedimento non conduce sempre ad una valutazione sicura. Le difficoltà che ci si oppongono in questo modo nella ricerca sono insite nei limiti del metodo. Se al contrario, in un quadro sincronico, si considerano comparativamente le strutture ladine con quelle dell'area circostante, si deve concludere che oggi esse costituiscono una entità linguistica a sé, rappresentabile in un diasistema particolare, riflesso nella coscienza dei parlanti e che pone anche delicati problemi di politica linguistica e culturale. Da ciò deriva che i due termini romanizzazione e ladinità si riferiscono a categorie diverse. Il primo concerne una problematica diacronica, il secondo esprime un concetto sincronico dal quale si disimplica una serie di problemi di analisi, descrizione e definizione di un sistema in una sezione temporale con tutti i suoi risvolti psicologici e sociologici. Da tutto questo si trae una conclusione importante per i nostri fini. Se le tre aree, occidentale, centrale e orientale, in cui oggi si riconoscono varietà ladine, o retoromanze, o alpine romanze, come si voglia chiamarle, sono riconducibili a un diasistema strutturale, è legittimo ritenere che esse un tempo costituissero una più grande unità, coincidente nelle sue linee essenziali con quella che, grazie a Dio, Isaia Ascoli assegnava al ladino dai Grigioni a Trieste. Se ne deduce che per ladinità dobbiamo intendere quel complesso di caratteristiche linguistiche e culturali nate dall'incontro tra romani e gentes alpine in un processo di fusione orientato verso il latino volgare e la civiltà di cui esso era veicolo, ma con forti reazioni del preesistente sostrato. È altresì evidente che, acquisita la base per determinare con tutti i limiti del caso i confini e i caratteri di questa entità, avremo anche il punto di riferimento per seguirne le variazioni, il che significa, in altre parole, chiarire meglio i modi e i tempi delle pressioni che muovono da sud e da nord e, nella loro cornice, valutare storicamente anche il rapporto romanità versus germanesimo. Se consideriamo l'area alpina centro-orientale nel suo latinizzarsi sul variegato fondo pre-indoeuropeo e pre-latino e nell'incontro successivo romano-germanico, essa ci si rivela come un tipico crogiuolo di popoli e di lingue. È in questa ottica che intitolavo un mio scritto del 1962, Aspetti, problemi e compiti della linguistica trentina. Con l'espressione linguistica trentina io ho voluto intendere di proposito qualcosa di diverso da una dialettologia trentina, posta sullo stesso piano di una dialettologia lombarda o ligure o di altri ambiti italiani. Claudio Leonardi, in un suo bel intervento al convegno interdisciplinare sull'entità ladina dolomitica, tenutosi a Vigo di Fassa dal 10 al 12 settembre 1976, trattando il tema la Valle di Fassa e la sua storia nella civiltà europea e accennando alla carenza della documentazione, concludeva: parlerei, fino a prova contraria, di preistoria ladina fino a tutta l'età carolingia. È vero che senza documenti storia vera non si fa. Ma è anche vero che il reperto archeologico, il nome di luogo, il termine lessicale, e talora anche la tradizione orale hanno una loro voce e possono consentire valide conclusioni storiche. Il lavoro sin qui condotto sui sostrati consente di ritenere come acquisiti i dati seguenti. Primo, a un sostrato mediterraneo assai esteso, ispano-caucasico, comprendente il basco, dovette coordinarsi in occidente uno strato più antico, euro-africano. Ambedue si individuano nel basco. Il secondo si intravede verso oriente sino all'Italia e alle Alpi occidentali. Il primo si spinge più in là, ai Balcani, all'Asia Minore e forse oltre, e quindi interessa in modo particolare la nostra zona. Secondo, le lingue mediterranee presentano una grande variabilità nell'ambito dei suffissi e alternanze vocaliche e consonantiche assai ampie. Questi fatti pongono il problema dell'esistenza di zone dialettali nell'ambito del pre-indo-europeo. Terzo, la supposta unità linguistica ibero-caucasica tra Oriente ed Occidente non esclude nell'ambito mediterraneo la presenza di altre lingue di ceppo differente non apparentato al basco, cui forse sono da ascrivere singole voci di sostrato affioranti in aree particolari, Alpi orientali, Grigioni, Egeo. È questo il quadro entro il quale acquista pieno significato il valore operativo di Alpenwörter. La conservazione di tratti linguistici preistorici testimonia del carattere arcaico di una parlata e ci consente di gettare uno sguardo, sia pur frammentario, sulla vita e sulla cultura dei popoli alpini preistorici che erano destinati a soggiacere alla conquista romana, ad assumerne il costume, le leggi e la lingua, non senza tuttavia imprimere nella nuova romanità, nata dalla mistione dei vinti e dei vincitori, i segni della loro precedente libera esistenza. L'analisi lessicale consente dunque di identificare sia la fondamentale unità di interpretazione che della natura davano queste genti tanto remote nel tempo, sia di avvertire tra loro delle diverse venature dialettali, testimonianza tenue ma sicura della presenza di raggruppamenti di tribù singolarmente caratterizzati, un quadro non diverso da quello che possiamo ricostruire per l'unità indo-europea. Non è possibile, se non in pochissimi casi, determinare o tentare di determinare con maggior precisione l'appartenenza di un termine a questo o a quel gruppo etnico del quale la storia ci abbia tramandato il nome. Più opportuno e prudente è quindi parlare di parole alpine, tenendo presente anche il fatto che esse sono state assunte nel latino e passate a costituire parte integrante del lessico alpino romanzo quasi sempre attraverso il filtro celtico o illirico. Il loro significato e peso dimostrativo è legato al tipo di distribuzione geografica che ne consente l'ordinamento in gruppi a seconda che esse siano presenti uniformemente in tutta l'area considerata o isolate in un settore di essa o comuni a due o più settori. Per riferirmi concretamente al territorio assunto come punto di riferimento centrale, la distribuzione può concernere tutto il territorio ladino, o il ladino centrale e il friulano, o il ladino centrale e quello occidentale, o il solo ladino centrale, o quest'ultimo e le parlate italiane più a sud e le tedesche più a nord. Orbene, se osserviamo le direttrici degli scambi e dei rapporti nei successivi periodi della romanizzazione e del costituirsi dell'alpino romanzo, la situazione si presenta analoga a quella che possiamo delineare per le fasi preistoriche. Parole e forme ripercorrono le stesse vie segnate dalla natura, risalgono da sud a nord lungo le valli, si diffondono da est a ovest e viceversa per i passi. Lungi dal poter considerare l'arco alpino come succedersi di aree chiuse, immobili, di sovrapposizioni di popoli diversi, siamo indotti a considerarlo come un quadriglio in cui sono continue e capillari azioni e reazioni linguistiche e culturali a costituire una tipica cultura variegata ma unitaria che dalla civiltà del legno e della pietra giunge all'artigianato e all'industria, con una continuità di caratteri che dimostra inoltre la mancanza di antitesi tra il nord e il sud delle Alpi. Gli elementi lessicali che si possono assegnare al più antico sostrato linguistico riguardano innanzitutto, come naturale, l'ambiente fisico, caratteri del terreno, della flora, della fauna, nuovo per i conquistatori, che dovevano quindi assumere contemporaneamente la nozione della cosa e l'uso della parola che la designa. Mi limito a alcuni esempi di forme e di estensione territoriale. Creta, vetta rocciosa, dal Piemonte al Cadore. Toal, gola montana, priva di vegetazione, prodotta da slavina o valanga, usata per calare a valle il legname, presente nella penisola iberica, estesa dalla Svizzera occidentale al Ladino centrale. Boa, frana di terra, estesa dall'Obwalden al Friuli. Roa, pendio sassoso, per il quale precipita un torrente, ricollegabile a forme della penisola iberica, estesa dalla Lombardia al Friuli e infine passato anche all'italiano. Troi, sentiero vicolo, che coinvolge la penisola iberica, il Ladino Dolomitico, il Veneto fino alla Val Vigezzo. Per questi esempi, e molti se ne potrebbero aggiungere, è frequente, come si è visto, il richiamo all'area iberica. Queste connessioni ci garantiscono la remota antichità della serie, ciò è naturale. Il lessico concernente i caratteri fisici geografici, costanti attraverso i millenni, ha un'estensione coincidente con l'area sede di quei popoli antichissimi e affiora quindi ancora oggi nelle zone montane più conservatrici, i Pirenei, le Alpi, la penisola balcanica. Analoghe considerazioni si possono fare a proposito di altre serie lessicali concernenti l'ambiente naturale, la flora e la fauna. Anche in questo caso, i nuovi venuti assumono facilmente dai popoli e dalle lingue preesistenti parole che designano animali e vegetali a loro prima sconosciuti. Va solo notato che in questa serie ci si riferisce ad elementi più strettamente legati ad un territorio per caratteristiche climatiche e ambientali e quindi spesso di area più circoscritta. Un solo esempio. A un tipo fondamentale, Dimru, Sirmu, esteso dal ladino occidentale e dalle parlate lombardo-alpine, attraverso il Solandro, il Moneso, il Ladino Dolomitico, sino al Friulano e ai dialetti del Tirolo e della Carinzia, si ricollega la voce ladina Zirm, Pino Cembro, Zirbelkirchor. È interessante notare come in questo caso, e perciò cito l'esempio, la varietà che necessariamente si postula per la base di partenza, Dimru, che dal latino occidentale gender, versus sirmo, che dal latino centrale sirm, lascia intravedere già in questa antichissima fase linguistica differenze dialettali nell'ambito di una fondamentale unità, differenze alle quali si può anche assegnare un approssimativo confine tra la val di sole e la val di non. Naturalmente si tratta di confini che non dividevano i gruppi sociali limitrofi. Attraverso i confini si operavano passaggi, scambi, prestiti e interferenze che in alcuni casi si lasciano individuare e appestano una circolazione vivace che non poteva non tradursi in unità di cultura pur con differenziazioni locali. Quale vita conducevano queste genti nel duro ambiente montano? Il lessico sopravvissuto ci disegna una vita povera e semplice, che sfruttava le immediate risorse naturali, il bosco e la lavorazione del legno, il bestiame e lo sfruttamento dei suoi prodotti, la fienagione, la lavorazione del latte, eccetera. Anche qui mi limito all'enunciazione di alcune voci, il tipo d'ascia, rami di conifere che dovevano servire a fare strame e giaciglio, bora, tronco lavorato, saba, grosso palo di stecconate, che semanticamente attesta pratica di recinzione per difesa, custodia o possesso. L'impiego del legno in costruzioni e strumenti è testimoniato da altri tipi lessicali, anche qui solo enunciazione, non commento. Sala, che sta alla base di salà, grondaia, conduttura lignea per l'acqua, esteso dalla penisola iberica, in questo caso, all'Italia settentrionale, all'arco alpino sino al Comenico. Brenta, su cui si può discutere anche per le connessioni celtiche, con una diffusione che va dalla Svizzera francese al Ladino centrale, dalle valli alpine alla Padania a sud e alla Svizzera tedesca a nord, e alcuni altri. Allo stato alpino preistorico si ricollegano relitti lessicali concernenti attività connesse con la terra e col bestiame. La fienagione assume una notevole importanza in una società che doveva riporre la propria ricchezza soprattutto nel bestiame. E qui ci sono due termini abbastanza interessanti, sui quali appunto, come prima, non mi soffermo, cioè il termine adigue, digue, ligue, secondo fieno, il grumoreccio, e il tipo marauch, mucchi di fieno segato raccolti nel prato per difenderli dalla pioggia e pronti per essere rimossi e posti a riparo. Sono termini che insieme con altri, il tipo manz, per esempio manzo, ciorda, bovina, l'escremento dei ruminanti, e brama, panna, presentano diversi problemi, possibilità di incroci, nel caso dell'ultimo termine citato, brama, che si trova accanto a una base gallica crama e che ha la forma bruma nelle Alpi orientali, presuppone naturalmente un contatto, una fusione e uno scambio. Il quadro che si può acquisire con l'esame dei relitti lessicali è confermato e in parte perfezionato dai dati forniti dall'archeologia. Non mi soffermo su quelle che troverete nel manoscritto, nella stampa, perché sarebbe troppo lungo. Una valutazione dei dati archeologici è tuttavia necessaria per inquadrare il discorso sugli elementi celtici, strato gallico, presenti nei riflessi di quella che io ritengo la base autoctona nel quadro linguistico totale dell'area atesina, il ladino dolomitico. I popoli indoeuropei con i quali le genti alpine pre-indoeuropee vennero primamente a contatto furono Celti e Illiri, Illiro-Veneti. I loro stanziamenti nell'arco alpino e lungo i margini meridionali di esso furono diversi per intensità e consistenza. Nell'area propriamente dolomitica la presenza gallica manca. Questo fatto pone dei problemi particolari e non facilmente solubili. Per quanto concerne lo strato prelatino gallico, pure largamente presente. Elementi gallici più antichi saranno da intendere come elementi di attrito in occasionali e non durevoli contatti. Gli altri debbono ritenersi penetrati in questa nostra area già in forma latina. Sono termini, in altre parole, comuni al libero romanzo, al gallo romanzo, all'italo romanzo, e che quindi, come elementi di sostrato prelatino, erano già acquisiti nel latino volgare, dal quale si svolgerà la forma particolare dell'alpino romanzo. La distinzione tra i primi celtismi di Adastrato e questi ultimi è molto problematica. Ciò che possiamo constatare con sicurezza si è che tutti questi celtismi latinizzati vengono a caratterizzare la latinità alpina nel senso di un legame particolarmente stretto con la latinità padana. I termini di questo strato afferiscono a tutti gli ambiti delle attività umane e disegnano il quadro di una cultura già evoluta pur nella sua austera semplicità. Le considerazioni che sono venuto facendo sono confermate, oltre che dalla tipologia dei reperti archeologici sopra ricordati, anche dalla valutazione dei dati toponomastici, che assumono notevole importanza per l'identificazione di stanziamenti stabili. Il lavoro capillare compiuto al riguardo da Carlo Battisti col suo monumentale dizionario toponomastico atesino e in numerosi altri scritti suoi e di scolari mi esime dall'entrare in particolari e consente di sintetizzare i dati e le conclusioni principali in questo modo. Primo, la maggioranza dei toponimi prelatini appartiene allo strato pre-indoeuropeo che costituiva il nucleo essenziale degli stanziamenti stabili addensati nelle conte principali. Secondo, lo strato più antico dei toponimi prelatini è analogo per il Trentino, il Tirolo meridionale e settentrionale. Terzo, nell'area più occidentale della nostra zona, rappresentata dalla Valle di Monastero e dall'Alta Venosta, affiorano i suffissi sc e inc di evidente origine ligure e tracce di ambientamento culturale illirico si recepiscono in tutta la zona con penetrazione dalla pusteria. Quarto, mancano nomi locali a riprova di una profonda penetrazione gallica o etrusca. Il coordinamento dei dati linguistici ed archeologici ci dimostra dunque che il quadro tradizionale di valli spopolate e inospitali si va progressivamente mutando, anche se non viene infirmato il fatto che il concentramento umano era più intenso nelle valli principali, sporadico e forse solo stagionale nelle valli minori laterali. Sicché necessariamente la romanizzazione assume un duplice aspetto. Primaria, lungo le direttrici principali dove si attuò il contatto diretto tra genti alpine originarie e romani, più intensa e pacifica nei confini del municipium tridentinum, meno intensa e meno pacifica al nord di questo. secondaria e tardiva, non tanto quindi romanizzazione quanto latinizzazione nelle valli più riposte. Alla vigilia della conquista romana, il nucleo originario preistorico delle genti alpine doveva aver assunto una fisionomia culturale relativamente nuova per gli apporti di elementi etruschi, illiro-venetici, celtici, tutti per azione di Adastrato. Linguisticamente non ci è dato di ricostruire un sistema rappresentativo di unità tipologica che doveva essere comunque fortemente variegata, come suggerisce la molteplicità dei popoli ricordati dalle fonti antiche, il Topeo Malpium, Tolomeo, Strabone, Floro, Brixinetes, Breuni, Cenaunes, Venostes, Isarci, eccetera. È sintomatico il fatto che alcuni di questi nomi siano suscettibili di analisi in una base pre-indoeuropea e in un suffisso indoeuropeo. Tipico al riguardo l'etnico Isarci, la cui base Isa ricorre nella toponomastica ligure ed iberica, mentre il doppio suffisso r-ico trova espliciti paralleli nell'illirico venetico. Sul fondamento di questi dati, che riconfermano quanto si è detto sopra circa i contatti preistorici tra genti autoctoni e popoli diversi, consentono di riconoscere in questa fase di vigilia due strati linguisticamente diversi ma ugualmente permeati di elementi di Adastrato gallico, uno strato venetico-illirico e uno strato più antico, pre-indoeuropeo, forse imparentato con l'etrusco, ma non necessariamente etrusco. Infatti, il concetto di una unità reto-etrusca, caro agli studiosi locali, non corrisponde ad una realtà linguistica. Che una presenza etrusca sia riscontrabile nella nostra area è fuori discussione. Basti pensare alla scrittura nella forma del cosiddetto alfabeto di Bolzano e ad alcune esteriorità linguistiche notate da Livio. Alpinis quoque gentibus, è un passo che si cita spesso, Tusca origo est, maxime retis, quos loca ipsa efferarunt, ne quid ex antiquo preter sonum lingue, nec eum incorruptum retinerent. Il che per lo storico romano è un indice sufficiente per identificare nei reti le ultime propaggini di un dominio etrusco esteso a tutta l'Italia settentrionale, escluso il territorio venetico, prima dell'invasione gallica. Molto più vicini alla realtà storica saranno Pompeo Trogo e Plinio il Vecchio, che vedono negli Etruschi presenti nelle valli alpine i fuggiaschi dalla pianura davanti all'irruzione gallica. Al nome di reti dobbiamo assegnare non tanto un contenuto etnico o linguistico, quanto piuttosto il valore politico di un conglomerato di tribù abbastanza differenziate. D'altra parte è chiaro che i confini della provincia romana Rezia et Vindelicia, col centro politico di Augusta Vindelicorum, non avevano alcun significato di delimitazione etnico-linguistica, in quanto tagliavano il territorio originario delle gentes alpine atesine sia verso il Norico ad oriente, sia verso il municipium tridentinum verso sud, di modo che l'unità territoriale retica, tra virgolette, resta suddivisa in tre settori, uno più ampio, assegnato alla Rezia Vindelicia, con parte dell'odierno Tirolo meridionale, il bacino superiore del Reno e dell'Inn e la sottostante pianura danubiana, e due minori, ascritte rispettivamente al Norico e al municipio tridentino. I modi e i tempi della penetrazione romana, sulla base delle attestazioni antiche e dei dati archeologici, sono stati interpretati secondo linee abbastanza divergenti. Non intendo entrare nel merito di queste discussioni per quanto concerne l'aspetto politico-militare della vicenda. Altri fatti mi sembrano maggiormente rilevanti per valutare il significato del processo di romanizzazione del nostro territorio. Il primo fatto è che Roma, aggregatasi con una manovra a tenaglia attraverso i giochi della Transpadana e le depressioni carniche, i territori del Medio e Basso Danubio, doveva assicurarsi la via diretta più breve che congiungeva la pianura padana al centro europeo. Il secondo fatto è che questo territorio costituisce l'antemurale della piana veronese, la cui pericolosità era stata segnalata dall'avventura cimbrica, sicché la zona di sicurezza creata dalle campagne di Lucio Crasso, 96 a.C., e Lucio Munazio Planco, 43 e 36 a.C., era ormai troppo ristretta e insufficiente. Il terzo fatto consiste nella irrequietezza delle gente salpine al nord di Verona, a tenere a freno le quali poco giovava un rapporto di confederati. Con la guerra retica si aprono ai romani le Alpi centrali. Il rapporto precedente di vicinato, fondato su scambi commerciali e sui flussi culturali di addestrato, si trasforma in un rapporto di dominazione e di assorbimento, e quindi di sostrato. Più intenso e profondo nei suoi effetti a sud, col fiorire del municipio tridentino e per la maggiore vicinanza di centri di irradiazione culturali, quali Verona e Padova. Più tenue al nord, al di là del confine amministrativo reto-italico, per quanto la frequenza dei toponimi in anum tra Merano e Bolzano e al corso inferiore dell'Isarco siano segni evidenti di una estesa colonizzazione romana. Una prova della diversa intensità di penetrazione culturale, malgrado il potenziamento delle strade, può essere vista anche nella distribuzione del numero di iscrizioni latine, una settantina del municipio tridentino, 6 nella valle dell'Isarco, 5 nella Pusteglia, poche decine insomma in tutta la Rizia alpina, di contro a un migliaio nel Norico. È mio convincimento che alla latinizzazione della zona e soprattutto della zona beunica abbiano contribuito più fortemente che non i primi insediamenti romani il processo di cristianizzazione, veicolato dalla lingua latina e il rifluire in queste valli più sicure di provinciali latinizzati del Norico e delle città della pianura danubiana sotto la spinta dell'espansionismo germanico, come pure di rifugiati italici al tempo dell'invasione gotica. Il dominio di Roma, per quanto interessato prevalentemente agli aspetti politico-militari dell'occupazione, portò con sé tutta una serie di novità e di rivolgimenti. Lo sviluppo della rete stradale, che in larga parte ricalcava ammodernandoli e potenziandoli tecnicamente gli itinerari preistorici, determinò lo sviluppo di stazioni, distanti l'una dall'altra circa una giornata di marcia. Esse talora rappresentano l'adattamento alla vita latina di centri già esistenti nella forma di villaggi accentrati e fortificati. Inoltre, l'indagine archeologica e l'analisi toponomastica comprovano che tra il primo e il IV secolo la fondazione di vici e ville. I reperti archeologici dimostrano poi che in larga misura i villaggi ricordati nei documenti altomedievali nell'area tra Salerno e Merano, tra Bolzano e Vipiteno, tra San Candido e Bressanone, si sono sviluppati su insediamenti romani. Espressione tuttavia di una latinità minore, meno incisiva, poiché è indiscutibile l'assenza di centri urbani quale fu Tridentum. Tutto fa ritenere che la romanizzazione delle genti autoctone si sia fatta innanzitutto sentire negli aspetti materiali della cultura, attraverso una larga importazione dal sud di manufatti, di utensili, di prodotti artigianali, o attraverso il costituirsi di centri di produzione locale sul modello romano. D'altra parte, l'introduzione di un sistema monetario valevole per tutto l'impero non poteva non incidere sulla struttura della vita economica e modificarne i rapporti interni rispetto all'epoca precedente. Tuttavia, il fondamento della vita economica rimase, almeno sino all'alto medioevo, l'allevamento del bestiame organizzato nelle vicinie o nelle unità pastorecce. È sintomatico al riguardo l'assunzione da parte dei sopraggiunti germani della relativa terminologia latina, mulgrae da malica, mandria, oblae da oviletum, alben, pascolo alpino da alpis, caser, cascina da casearia, senne, capanna da pastori, da sannio, schotten, ricotta da escocta, eccetera. Se a queste considerazioni aggiungiamo il poco che conosciamo dell'ordinamento amministrativo, deducibile più che altro dai termini usati per indicarne le suddivisioni, decania, centena, valles, e che indicano abbastanza chiaramente il governo di un gruppo in base alle rappresentanze familiari sotto la guida di un capo, ordinamento che, per notare, si diversifichi sia dal sistema curtense, sia da quello della zippa e della fara, e se inoltre teniamo conto del fatto che alle stirpi retiche fu assegnata il ius peregrinum, otteniamo dalla latinità atesina un quadro caratterizzato da elementi ritardatari, testimonianza di una colonizzazione non approfondita, di una vita economicamente modesta, ancorata più al mondo agricolo-pastorale che non a quello urbano, in verità assente, marginale rispetto al fiorire della vita e cultura latina a sud del confine retico. In sostanza, il quadro di un'azione di incivilimento latino relativamente seriore, al cui progresso culturale il governo romano evidentemente non annetteva molta importanza. Perciò, ripeto, a mio avviso, un peso più determinante nel processo di latinizzazione ha avuto la cristianizzazione, in parte coeva alla romanizzazione, con la fondazione delle diocesi di Sabbiona, Bolzanone e di Trento. Infatti la Chiesa, con la sua amministrazione, la fondazione di abbazie e di parrocchie rurali, le pievi, è stata un forte centro propulsore di cultura latina. Il processo di conversione culturale e linguistica, consistente quest'ultima in una radicale sostituzione di sistema linguistico, fu dunque lento, e non abbiamo alcun dato che ci consenta di determinare il tempo in cui può dirsi compiuto. Se agli inizi del V secolo, sulla testimonianza del vescovo Zosimo, nella Svizzera orientale, quindi Valle di Monastero, Alta Val Venostra, persistevano tracce di vitalità delle lingue preromane, non è escluso che il fenomeno si sia verificato per un periodo più o meno lungo anche nelle nostre valli. D'altra parte, i primi documenti scritti che ci attestino fuori di ogni discussione la completa e radicale latinizzazione nella forma evoluta del neolatino sono per la nostra area molto tardive. E se si esclude il registro pastoreccio di Laces in Val Venosta del secolo XIV, comunque andato perduto, non risalgono oltre il XVII-XVIII secolo, di contro alle attestazioni friulane del XIII secolo e ladine occidentali del XII secolo. Nello studio del patrimonio linguistico costituito dallo strato latino volgare atesino, nelle sue varie componenti, il problema non consiste allora tanto nel determinare attraverso il documento o la ricostruzione la base di partenza e nel seguirne i processi evolutivi formali e funzionali, quanto nel vagliare gli aspetti generali e le cause dei tratti conservativi o innovativi, soprattutto in quell'area differenziata dolomitica che ho segnalato sopra come quella che più e meglio si ricollega alle radici originarie e che costituisce, insieme alla toponomastica, la fonte principale per lo studio dell'evoluzione del latino nell'area retica. Se il latino, affermandosi, ha cancellato il sistema linguistico precedente, tuttavia recependone come sostrato alcuni aspetti, non solo è venuto caratterizzandosi come varietà nell'ambito del latino volgare, ma ha pure posto le premesse di quei processi innovativi o conservativi che sfoceranno nella caratterizzazione strutturale di questo settore dell'alpino romanzo. La casistica entro la quale inquadrare i fatti è chiara, in quanto si fonda sui principi statistici della geografia linguistica. Non è possibile prendere qui in considerazione analiticamente tutta la vasta e complessa casistica che l'evoluzione dello strato latino comporta. D'altra parte, i materiali relativi sono stati esaminati più volte e da diversi studiosi che ne hanno tratto conclusioni talora discordanti, ed è noto che proprio su queste si fondano le lunghe discussioni e le opposte soluzioni date alla questione latina. Ciò che importa rilevare e su cui tutti possono concordare è che la romanizzazione si compì in modi e tempi diversi nelle valli alpine, che essa è spesso concomitante con la cristianizzazione, che ha avuto spessore diverso a nord e a sud del confine retico, che il superstrato germanico ha agito nelle nostre valli sino alle prime infiltrazioni da Iuvare in modi diversi da quelli che constatiamo nel restante della Romagna e per certi aspetti secondariamente. Il rapporto linguistico latino-germanico va quindi visto in articolazioni, modi e fasi differenti. Le invasioni germaniche non hanno solo infranto la compagine dell'impero romano e interrotti legami e scambi linguistici tra le province. Esse hanno determinato nuovi fatti evolutivi, indebolendo limiti linguistici antichi e creandone dei nuovi. Quando attraverso la Gallia si istituisce un confine linguistico per cui si caratterizzano il provenzale del francese dal diverso trattamento delle tenui sonorizzate e dallo sviluppo delle vocali toniche, o quando in Italia, al contrario, uno sviluppo delle toniche analogo a quello del francese si attua al di sopra e al di sotto della linea Rimini-Spezia che segnava l'antico confine linguistico indebolendolo, la causa di questi fatti risale al superstrato germanico, Franchi e Burgundi in Francia, Longobardi in Italia, che opera in una Romagna bilingue determinando ulteriori frazionamenti con azione uguale e risultati diversi per le diverse condizioni storiche dei vari paesi. L'incontro tra romanità e germanesimo nel nostro territorio assunse caratteri particolari. Mentre ad esempio nel settore occidentale delle Alpi il neolatino ebbe alle sue spalle il sostegno del blocco francese provenzale, dal Gottardo a Trieste venne a crearsi una striscia discontinua presa tra due fronti, a sud i dialetti orientati verso l'alto italiano, a nord l'espansionismo alemanno e baiuvaro. Ciò determina una situazione di difesa che si traduce in una caratterizzazione fondata più sulla conservazione comune di tratti antichi che non su comuni innovazioni. Se restringiamo il discorso all'area atesina, e per analogia con l'esposizione precedente mi riferirò soprattutto a livello lessicale, per la valutazione della penetrazione germanica dovremo distinguere tre strati cronologici. Il primo strato concerne gli elementi germanici più antichi, già assunti nel latino volgare della Rezia e affermatisi nell'Italia settentrionale a seguito delle dominazioni gotiche, longobarda e franca. La loro antichità è provata dal fatto che essi partecipano dei fenomeni evolutivi specifici del latino, come gli elementi latini originari. Si tratta quindi di forme che il latino centrale ha ricevuto non direttamente, ma tramite fasi tardive del latino volgare. Il secondo strato più recente, in molti casi anteriore all'VIII secolo, è probabilmente dovuto ad un'azione diretta di adstrato, è costituito da forme antico e medio alto tedesche. La loro relativa antichità le ha profondamente radicate nel corpo della lingua di cui hanno seguito le vicende, né oggi il parlante può avvertirne la originaria estraneità. Il terzo strato, ma qui il discorso esula troppo dai limiti del tema, concerne prestiti ancora più recenti, assunti direttamente dal tedesco o per il tramite tirolese. Il loro evidente carattere formale e l'ambito semantico li rendeva immediatamente riconoscibili. Essi, come elementi di adstrato, sono rimasti vitali nelle zone a diretto contatto con l'area tedesca, Gardena, Badia, Marelle, sono andate regredendo nelle zone più decisamente incluse nell'orbita culturale ed economica italiana, Fassa e Livina Longo. Una cosa è certa, il cambiamento linguistico, come scrive Carlo Battisti, specialmente nelle masse rurali, in un periodo in cui non vi fu coercizione, e mancò nell'animo popolare la sensazione di una lotta cosciente fra romanità e germanesimo, non avvenne rapidamente, ma maturò via via in un lungo periodo di simbiosi di elementi neolatini e tedeschi, non alieni, specialmente i primi, sotto l'impulso di necessità ambientale, dal valersi, secondo i casi, dell'una o dell'altra lingua. In realtà, la penetrazione baiuvara nelle Alpi retiche, pur nell'oscurità in cui l'avvolge la mancanza di fonti storiche, assume caratteri ben diversi dagli insediamenti germanici nelle altre province dell'impero, franchi in Gallia, longobardi in Italia, visigoti in Spagna. Non si tratta di invasione, ma di infiltrazione per ondate successive, che, a parte gli scontri col Ducato Longobardo di Trento, non testimoniano di dure lotte fra immigrati e indigeni, il che fa pensare ad una situazione di sopportabile convivenza tra germani e latini e ad una penetrazione lenta e pacifica con insediamenti germanici circondati da stanziamenti neolatini, come nella piana di Brunico. Tutto ciò portava tendenzialmente più a un ibridismo linguistico che a una sostituzione, ibridismo in alcuni casi documentabile, e il cui avvio può essere confermato dalla massiccia intrusione di elementi neolatini nei dialetti locali tedeschi. Un autentico processo di germanizzazione della latinità locale, seriore e relativamente debole, per mancanza di centri di espansione culturale, sarà da vedere nell'opera di rapida bonifica e di sfruttamento agricolo condotta da forti nuclei di immigrati dalla fine del X secolo. Ciò spiegherebbe anche il fatto che le valli dolomitiche, che non parteciparono a questo sviluppo per la loro diversa economia, conservarono la loro identità neolatina pur subendo, a seconda della loro collocazione geografica, l'attrazione culturale o del mondo germanico o del mondo italiano. Il processo di una autentica, sistematica e programmatica germanizzazione è fatto comunque tardivo, frutto di una volontà politica del clero e del governo che vedevano nell'intedescamento una barriera al diffondersi del calvinismo attraverso la Val Venosta, ma frutto anche del consolidarsi della proprietà terriera tedesca di signori laici e di monasteri e dell'affermarsi di un clero prevalentemente tedesco. Né d'altra parte va dimenticato un altro fatto. Il processo, che in sé non doveva incontrare forti resistenze o cosciente antagonismo, era favorito dall'affermarsi di nuovi centri urbani, prima inesistenti, nelle piane di Merano, Bolzano, Brunico e Bressanone, centri essenzialmente tedeschi. Meno ha certo giocato l'appartenenza a strutture statali tedesche, come dimostrano le diverse vicende linguistiche delle valli dolomitiche e del Trentino. Errore posto in luce dagli studi etnografici ed etnologici, ma non ancora sradicato del tutto, è quello di ritenere che le aree culturali coincidano con i confini delle aree linguistiche. Ciò può verificarsi, ma non necessariamente. Gruppi con parlate uguali o simili possono avere tradizioni differenti e viceversa, popolazioni con parlate differenti possono avere tradizioni uguali. Possono cioè costituire una entità culturale. Essa non coincide con l'unità derivante dalla comunanza del suolo e della terra, dal comune trovarsi rinchiusi nello spazio e nel tempo. Questa è l'unità più superficiale e non coincide certo con l'unità della storia. Anzi, l'elemento astorico della storia è costituito dal semplice substrato fisico e dal ricorrente in modo identico dalle causalità regolari. Ciò non significa che l'ambiente fisico non incida sul modo di concepire e di vivere l'esistenza. Significa che il suo valore è marginale rispetto al peso che assumono altri fatti umani e sociali nel costituirsi di unità. L'unità deriva dal senso in direzione del quale la storia diviene, un senso che attribuisce significato a ciò che senza di esso rimarrebbe un nulla nella dispersione. A mio avviso, questo senso, in quanto definisce l'entità atesina, trova il suo fondamento nella preistoria. Su questo si è sviluppato col diverso contributo, ma pari per importanza, di autoctoni latini e germani, quella tipica macrostruttura materiale e morale di cui divennero eredi e depositari deboli, ma legittimi i ladini. Questo elemento impalpabile qualche volta che è la linguistica. I linguisti hanno questa specialità di confondere, di chiarire attraverso un'analisi molto spesso difficile, molto spesso sfuggente, non soltanto l'analisi toponomastica, che è molto più semplice, più aperta, ma attraverso appunto l'analisi della parola, delle parole, del loro complesso. Io con molto interesse, direi anche con una certa sorpresa, sento parlare come conclusione di un sostrato pre-romano, addirittura magari pre-indoeuropeo, un sostrato che noi poveri modesti storici non conosciamo, e neanche gli archeologi riescono molto spesso a riconoscere, perché suddividono il tempo in gruppi dal manufatto, pietra, paleolitico, neolitico, bronzo, ferro, che ci lasciano perplessi a un certo momento, perché di questa gente, che pure è vissuta, che ha lavorato, noi non conosciamo assolutamente niente di quello che è la vita quotidiana, la parlata quotidiana. Ci vuole proprio la divinazione, direi quasi magica, dei linguisti per riscoprire quello che non è mai stato tramandato in una scrittura, salvo l'etrusco eretico, i quali però hanno la brutta abitudine di darci semplicemente dei frammenti di parole o di espressioni, e di lasciarsi di fronte sempre all'enigma della parlata di questa gente, anche se appunto il dialetto di Bolzano noi lo conosciamo discretamente, come conosciamo discretamente il dialetto di Mesocco, ma soltanto per una ventina di parole, quelle che servono a dire: qui giace la persona, questa è la tomba del tale, figlio del tal'altro, e niente di più. La questione centrale, non soltanto per l'Atesino, ma per gruppi molto più consistenti, è quella del ladino. C'è una polemica, direi quasi che c'è una corrente politica che vorrebbe ricostruire una unità ladina da San Moritz, fino ad Aquileia, che mi lascia molto perplesso, devo dirlo. Capisco che si può leggere, si può capire il romance e il ladin grigione, si capisce abbastanza bene il ladino del dolomitico, si capisce benissimo, almeno io lo capisco benissimo, il friulano, ma tra il friulano che arriva al passo della Mauria e lascia fuori Comelico e Cadore, che sarebbe il corridoio di unione con il ladino dolomitico, e la Val Gardena o la Val di Fasso o altre valli dolomitiche sono distaccatissime dal romanzo di Coira, o meglio della Rezia Coirese. Io resto molto perplesso su questa unità, sulla quale invece giurano politicamente alcuni elementi. Ecco, questo è uno degli aspetti per me molto interessanti della relazione di Heilmann, che puntualizza precisamente questa diacronicità dei movimenti, delle influenze, dei travalicamenti di lingua da una parte o dall'altra e che ci permettono forse di capire un po' questo problema linguistico della, di tutta la zona intralpina o a cavallo delle Alpi, che Heilmann ha studiato con la sua competenza di mago per le valli atesine. Tra poco traduci i linguisti in aruspici, eh? Quasi. E come gli archeologi che anche loro sanno fare della magia. A questo punto io direi possiamo anche iniziare la discussione su questa relazione, e poi alle 11 facciamo ben 40 minuti di discussione. Alle 11 io vi darei il permesso di andare a prendere un caffè. Chi vuole prendere la parola sulla relazione del professor Heilmann? Mi pare che siano piuttosto... Ecco, se non è proprio pertinente, non è completamente pertinente. Beh, basta che ci sia un comino. Ma appunto c'è. In realtà non sono stato pertinente nemmeno io con le discussioni. Cioè, è un po' un discorso che qui penso che si possa fare in modo, secondo me, un po' di più. Cioè, verso i primi dell'Ottocento è stato rinvenuto il famoso Elmo di Negau. Elmo di Negau che porta una certa iscrizione che per lungo tempo è stata ritenuta runica. E quindi sì, è sempre detto che il primo documento runico è l'Elmo di Negau, risale al secondo secolo d.C. Diciamo negli ultimi 30-40 anni circa, invece, si è detto che l'Elmo di Negau non contiene un'iscrizione runica, ma un'iscrizione nord-italica, o secondo ancora delle tesi del Master del 1928-30, addirittura nord etrusca. E diciamo l'Elmo di Negau, insieme ad altre iscrizioni retiche, dovrebbe contenere un alfabeto della zona, di questo tipo di popolazione. E tra le ipotesi che sono state fatte dell'origine delle rune è quella che sembra oggi come oggi la più fondata, perché escludendo un'origine, cioè diciamo un'imitazione dell'alfabeto greco, di quello etrusco, di quello latino, l'alfabeto nordalpino sembra per una moltitudine di segni simili quello che più può, diciamo, essere stata l'origine delle iscrizioni, anche e soprattutto per il tipo di lettura, che non è solo da destra a sinistra, ma anche da sinistra a destra e anche in verticale, e per i punti che, diciamo, si... iniziali. Ecco, ora, a questo punto sono state fatte varie ipotesi. Quali erano questi germani che circa nel primo secolo o prima potevano essere in questa zona? Hanno conosciuto questo tipo di grafia, di scrittura, diciamo così, hanno aggiunto altri segni, perché chiaramente non è perfettamente identico al Fusat germanico, e quindi abbiamo le prime iscrizioni uniche della Germania, Svezia, eccetera, Obrestavo, eccetera, eccetera. Ecco, la mia domanda adesso è questa: come si può collocare in questa zona alpina, presso questi popoli, questa fusione, questa creazione? Si è parlato di cimbri e teutoni nel primo secolo che sono venuti in questa zona e che quindi poi a un certo punto, tornando in Germania, ma io... Cioè, credo che una risposta esauriente non si possa dare, non si possa dare. Si possono esprimere delle impressioni e in certi casi delle convinzioni che hanno poi sempre un carattere personale. La mia impressione è questa. Noi siamo troppo spesso portati a vedere lo scambio culturale legato a grossi contingenti umani che si spostano. La diffusione della cultura, a mio avviso, e soprattutto la diffusione della cultura in aree accidentate, come sono quelle montane, avviene capillarmente. E se avviene capillarmente, è allora molto difficile poter dire, a meno che non ci sia il caso fortunatissimo, è avvenuto qui, è avvenuto per questo tramite. È chiaro che dal sud elementi di cultura etrusca e quindi anche elementi dell'alfabeto etrusco sono risaliti verso nord. Fin dove sono risaliti, portati da etruschi, e dove poi il Teodoforo, diciamo così, ha preso la consegna, questo non lo possiamo dire, ma è certo che tutta l'Europa, in sostanza, ancora in periodo preistorico, non era un'area chiusa. Non è che ci fossero dei gruppi che non comunicavano con altri gruppi. Secondo me è stato un gravissimo errore interpretativo anche di fatti linguistici ritenere, per esempio, che i passi alpini fossero delle grosse difficoltà per lo spostamento degli individui e lo spostamento anche di gruppi abbastanza consistenti. Siamo noi che siamo abituati alle autostrade, che diciamo di lì è faticoso passare, quindi di lì non passavano. Non è affatto vero. I sentieri preistorici percorrevano delle zone particolarmente difficili e dove noi riusciamo a identificare la strada preistorica, vediamo che il più delle volte non segue la nostra logica, segue un'altra logica che evidentemente doveva essere determinata da diverse condizioni fisiche. In genere la strada preistorica non va nel fondo valle, ma va sul declivio. Perché? Perché il fondo valle era, primo, probabilmente paludoso o d'altra natura. Secondo, era meno sicuro, molto più difficile da percorrere. Quindi il fatto che si possono trovare a sud e a nord delle Alpi degli oggetti, quindi frutto di scambio, delle forme di cultura, delle forme di produzione o delle espressioni anche di una cultura superiore come può essere quella della scrittura, non mi pare che costituisca un grosso problema se noi lo vediamo in questa prospettiva, cioè nella prospettiva di scambi. Il più delle volte singoli o molto limitati di diffusori più o meno coscienti, più o meno deliberati, che avessero un programma di questo genere. È chiaro, non si tratta di un processo analogo al processo dell'evangelizzazione, dei missionari, i quali andavano singolarmente ma avevano dietro alle spalle un programma. Questa gente il programma non ce l'aveva, ma occasionalmente dava dei contributi che venivano poi assunti. Quello che è importante essenziale nell'interpretazione di quell'iscrizione è di stabilire se ci serve o non ci serve per datare la prima Lautverschiebung o cose del genere. Ecco. Il fatto diciamo grafico ha un'importanza direi minore. Almeno per il linguista, per l'epigrafista è un'altra cosa. Diciamo che la creazione di un alfabeto germanico che esprime anche determinati suoni, oltre che può essere anche un... Certo, bisognerebbe poi identificare il valore funzionale di quei segni, no? Come sono stati assunti, come sono stati adattati, eccetera, eccetera. Ma in fondo tutti abbiamo imparato a scrivere dai greci, no? E questi avevano imparato a scrivere dai semiti nord-occidentali e questi dagli egiziani e via di questo passo. Quindi il cammino è molto lungo. Professor Wilbrauer. Herr Kollege Heilmann, vielen Dank für Ihren Vortrag, aus dem ich sehr viel gelernt habe. Auf einem solchen Seminar, in dem ja sehr viele Disziplinen vertreten sind, ist, glaube ich, folgerichtig, wenn die Frage von Seiten der Archäologen und der Historiker kommt, unter dem Titel Roman und German im Alpenraum im 6. bis 8. Jahrhundert, sagen wir vom 5. bis 10. Jahrhundert, die konkrete Frage, wie kann man in diesem Zeitraum des 5. bis 10. Jahrhunderts das Namensgut der Ortsnamensschichten, der Flussnamen, jener Dinge, die in den alltäglichen Bereich fallen, Werkzeuge untergleichen, der Alltagssprache, wie kann man die Elemente, die aus dem Romanischen, aus dem Lateinischen kommen, und die germanischen Superstrate chronologisch in diesem Zeitraum versuchsweise in chronologische Schichten fassen. Und wie kann man diese dann kartografisch in dem Prozess zeitlich abgeschichtet in diesem Raum darstellen? Ich frage deswegen, vor zwei Jahren war 1980 in Neustift eine Tagung. Da referierten die Kollegen Pellegrini und Pfister von Seiten der Romanistik her und Herr Sonderegger von Seiten der Germanistik her. Und beide Kollegen hatten versucht, sehr vorsichtig, die Chronologie dieser Schichten ist sehr umstritten, aber sie hatten versucht, das vorhandene Quellengut in zeitliche Horizonte zu ordnen und auch kartografisch zu erfassen, um dann auf diesem Bild aufbauend konkret in die Abläufe zwischen den romanischen Dialekten in diesen Teillandschaften einerseits und das Hineingreifen dann im 7., 8. Jahrhundert des Germanischen zu erfassen. Wie steht es hier konkret, wenn man diese Dinge umsetzen will, in unseren Raum kartografisch mit zeitlich gestaffelten Schichten? Welche Chancen bestehen da? Also in Neustift hatten die Kollegen Sonderegger, Pellegrini und Pfister dieses in Karten uns präsentiert. Das hatte ich hier nicht gehört und das ist ja das, was den Historiker und den Archäologen interessiert, konkret. Wie sieht es aus in den Schichten kartografisch? Esatto. Il mio discorso è stato volutamente come dicevo all'inizio, un discorso fuori tema. Cioè un discorso più metodologico e programmatico che non riferito a quell'ambito e ai risultati che si possono inserire in quell'ambito. È chiaro che se noi vogliamo ottenere quello che lei auspica, noi dobbiamo procedere a un discorso completamente diverso, che in parte poi è nelle zone, diciamo, tagliate e nelle note. Cioè, noi dobbiamo valutare i singoli dati, che sono dati documentari, dati toponomastici, soprattutto direi dati toponomastici, dati onomastici, nella loro forma attuale, per risalire ad una forma più antica, e quindi in base al rapporto tra forma antica ed età presunta, stabilire le varie stratificazioni in questo ambito cronologico ristretto. Questo lavoro noi lo possiamo fare soltanto attraverso l'indagine, soprattutto fonetica, per constatare se la forma moderna è suscettibile di essere ricondotta a quella forma antica. In questo caso noi possiamo tracciare poi anche cartograficamente la distribuzione di questi elementi e dire: ecco, qui noi abbiamo un nome locale di base pre-indoeuropea, supponiamo, o comunque prelatina, qui abbiamo un toponimo di base germanica, quindi qui abbiamo perlomeno il giustapporsi territoriale e la sostituzione eventuale temporale. Questo è un lavoro di indagine soprattutto di carattere fonetico e documentario, perché senza il documento qui non è difficile, è impossibile farlo, no? Kollege Pfister arbeitet an einem Lexikon über dieses Namensbuch mit den Methoden seines Mannes. Und soweit ich mich erinnere, ist es ihm gelungen, hier zeitliche Abschichtungen in einem groben regionalen Kontext zu erarbeiten. Und dieses in Relation zu setzen, eben etwa zu dem Rätischen und dann natürlich auch zu dem langsam dann ab dem 7. Jahrhundert hier vordringenden germanischen Namen. Diese Relation kartografisch und zeitlich, das war meine Frage. Dankeschön. Santini, Professor Santini. Seguito con estremo interesse la relazione del professor Heidemann, soprattutto perché il parallelismo tra lingua e diritto è un vecchio problema, direi anche un vecchio criterio metodologico, basta pensare al vulgar recto. Tutte le complicazioni che ha comportato quando si è cominciato a capire che non ci si riferiva al latino, diciamo così, ufficiale, ma al latino parlante. Quindi il problema che mi interessa è questa, sul quale sinceramente non sono cominciato. Cioè, per la linguistica, il problema della continuità, come si pone e come viene risolto a livello puramente linguistico. È chiaro che poi la domanda sottintende il fatto che lei dice anche nel suo riassunto, che insomma storia e diritto sono isomorfe, perché entrambi studiano delle strutture, entrambi studiano delle società. In particolare, io penso per esempio al titolo di quel classico libro di Battisti, Popoli e Lingue d'Alto Adige, che almeno dal mio punto di vista viene a dire che l'Alto Adige, pur essendo un popolo, è anche una pluralità di popoli, intendendo per popoli delle strutture appunto del tipo che noi storici del diritto andiamo a cercare, le valli, le pievi, gerarchizzate, eccetera. E allora viene la seconda domanda. Con riferimento anche all'esigenza sempre di cartografare, di visualizzare e alla nostra, credo, comune ansia appunto di arrivare a una storia che sia di comprare le presenze per le passeggi, le passeggi per le presenze. Ecco, se si dovesse pensare a una visualizzazione del fenomeno linguistico in Alto Adige, si sarebbe molto distanti da una visione di questo genere. Per esempio, che il Valsugarotto sia una varietà dell'individuata, no? Dell'unità linguistica e culturale d'Alta Tesia, credo che sia pacifico, no? Ma, per esempio, mi è sembrato di cogliere nella sua relazione anche un riferimento, per esempio, al nonese, insomma, la lingua della Val di Non. Ecco, poi c'è la Val Giudicaria, cioè la Valle del Sac, può essere considerata un'altra grande area che corrisponde ad una di quelle che appunto noi chiamiamo, come del resto quello che Tommastica indica, una Giudicaria Longobarda, una di quelle di cui parlavamo ieri. Resterebbe il Bolzanino e direi che lì il discorso è abbastanza pacifico. Le altre varietà, tipo Val Venosta, Val Pusteria, eccetera, le escluderei momentaneamente dal quadro soltanto per mettere a fuoco il Principato Vescovile, diciamo. Il Principato Vescovile come struttura generale e come cartografia, diciamo. Nell'ambito di questa cartografia è possibile individuare, appunto, delle strutture. Io intendo le strutture, appunto, stando alla definizione del Brodel, se ben ricordo, delle realtà che il tempo stenta a lavorare, che porta con sé molto a lungo, insomma, no? Una cosa che dura, in fondo, delle aree culturali minori all'interno di un'area culturale d'Italia. Ecco, non so se sono stato chiaro. A dire la verità, non ho capito a fondo il nocciolo della domanda. Sì, allora cerco di essere più sintetico, almeno. Cioè, il problema della continuità nella linguistica. Se nella linguistica un problema di continuità si può... L'evoluzione è una continuità. L'evoluzione può essere per conservazione o per innovazione. Ma credo che questo valga per la linguistica come per qualsiasi fenomeno umano. Evoluzione significa costruire sul passato un presente che vale per il futuro, in questa linea. Naturalmente ci sono le rivoluzioni, e sono precisamente quelle che cambiano radicalmente la struttura, perché lei adesso ha dato un dobbiamo intenderci sui termini, certo. Quando io parlo di struttura intendo strutturalmente un sistema, un insieme in cui tu soutiens, e quindi le unità funzionali hanno tra di loro certe relazioni indipendentemente dalla variabilità della loro manifestazione concreta. Se a un certo momento questo ordine si rompe, abbiamo una rivoluzione, una trasformazione. Ma intendiamoci, anche questa rivoluzione ha sempre in sé qualche cosa del prima e prepara qualche cosa del dopo. Chiaro? Quindi evoluzione, in sostanza, nonostante le rivoluzioni, segna la continuità del fenomeno. Quello che importa, e importa al linguista, come credo importa allo storico, come importa all'archeologo, è precisamente quello di determinare in questa evoluzione, che noi tagliamo a un certo momento per ragioni di studio, più o meno arbitrariamente, in un momento, che sarà VII-VIII secolo o qualche cosa di più, ma arbitrariamente, di individuare ciò che è rimasto di prima e ciò che invece si è introdotto di nuovo, e individuare il perché si è conservato il prima e il perché si è introdotto il nuovo. Ecco che allora il concetto della struttura, che è un condizionamento interno, diventa un effettivo strumento interpretativo, operativo, euristico, perché è soltanto nell'interno di questa struttura, che noi possiamo identificare i momenti di crisi e il perché della crisi, allora facciamo veramente la storia interna della lingua come istituto, del diritto come istituto, della tradizione come istituto e come, quindi come struttura, in questo senso. Eventualmente, no, casomai la seconda parte, cioè se c'è la possibilità di riconoscere queste aree culturali minori che si identificano eventualmente con le grandi valli, se è possibile. Questo direi di sì, nel senso, perché il problema in questo caso è prima un problema di osservazione, no? E poi un problema di interpretazione. Se noi circoscriviamo il territorio, il discorso non è che metodologicamente cambi, è sempre lo stesso, ma avrà dei confini molto più precisi, e entro questi confini noi dovremo fare il lavoro, quale naturalmente non potrà poi prescindere da tutto quello che c'è intorno, anche perché in questo caso noi potremo poi introdurre appunto il criterio della comparazione areale, e attraverso il criterio della comparazione areale ottenere delle altre possibili conclusioni. Sembrava che Emma della superazione, e mi preme un po' dire alcune parole per quanto si riferisce al problema tipologico della questione latina da un lato, e dall'altro di ciò che normalmente si ritrova anche sul piano, per così dire, pseudoscientifico, ossia popolare, relativo alla cosiddetta unità latina, eccetera. Voglio ribadire il fatto che mi sembra necessario sempre distinguere tra una tipologia nel senso scientifico del termine e tipologie per così dire popolari. Si dice nuovamente, diciamo, l'opinione comune che si riscontra un po' dappertutto nei paesi germanici, che c'è una sviluppata unità tra Hamburg e Bolzano, per esempio, per quanto si riferisce alla lingua, e la gente normalmente naivamente si poggia in questi momenti sul fenomeno meramente psicologico della incomprensione. Possono intendersi quando parlano l'uno all'altro, quando anche l'uno sia originario di Hamburg, l'altro di Bolzano. Ma per quanto si riferisce alla tipologia scientifica, e più precisamente a ciò che è stato introdotto da Lascoli nella discussione, mi sembra che bisogna vedere il pericolo che si presenta dappertutto, ovunque un certo apporto scientifico scende dal livello scientifico a livello popolare. Dunque, Ascoli ha scritto il suo libro non per tutti quelli che non conoscono la linguistica, è un libro con un chiaro intento scientifico. Chiaro che Ascoli aveva una certa visione culturale, diciamo politico-culturale del mondo del latino, ma sono visioni che si riscontrano in una maniera comparabile anche in altri paesi neolatini, per esempio, anche in altri paesi germanici e così via. Quando si pensa per esempio alle discussioni che c'erano nel tempo in Catalogna intorno all'unità della lingua catalana, quando si pensa a ciò che si riscontra oggi in Frisia, per esempio, all'interno, rispetto all'unità dei tre nuclei frisi, eccetera, è dappertutto la stessa cosa. C'è da un lato il livello scientifico, gli studiosi conoscono i problemi, il metodo, eccetera, eccetera, e c'è dall'altro lato anche quel livello popolare che spesso è molto pericoloso. È molto pericoloso perché le idee non sono più chiare, perché ci sono possibilità di incursioni politiche, incursioni ideologiche, eccetera, eccetera, e soprattutto tutto questo non è più controllabile, dilaga. di là in modo incontrollabile. E ho sempre scoperto, un po' comparando questi momenti, che gli studiosi, quando parlano in una certa maniera su questi problemi, non sono consci del pericolo che corrono, del rischio che corrono, perché quando si disume quello che si legge, scritto in un libro scientifico, in una maniera non scientifica, il contenuto, questa è una specie di esplosione. E si sa che, per esempio, il pensiero di Ascoli può essere soggetto a molte interpretazioni, insomma, non è una cosa che è così chiara come, per esempio, non so, un trattato di fisica nucleare. E questa unità latina che può essere riscontrata oggi su due livelli, livello, diciamo, scientifico, sì, ma anche a livello popolare, quando, non so, la popolazione di Italia, la gente più o meno dotata della sua selva, della Latina Dolomitica e così via, ne parla, è un atteggiamento anche di difesa e di questa coscienza culturale. Sì. E chiaramente tutto questo è un po' mitologico, ma insomma di culture sono sorelle, da miti, insomma. E mi sembra anche importante badare alla dinamica di tali fenomeni. Dinamiche, ci sono dinamiche innate, dinamiche che sono imposte dall'esterno e dinamiche che possono rallentarsi, forse, rallentarsi per un certo periodo, per più tardi cambiarsi di nuovo. Quando si pensa, per esempio, al caso dell'Ivritz, dell'ebraico moderno, che ha preso un'evoluzione gigantesca rispetto a ciò che si può leggere nella Bibbia, per esempio nei testi sacri della Palestina, cioè non si può riconoscere il livello linguistico, il nuovo è completamente diverso, quando anche la popolazione sul luogo è fermamente convinto di avere davanti a sé una sola lingua, un solo sistema, per così dire, linguistico. Abbiamo per esempio un discorso analogo a quello latino, romanzo, eccetera, in Occitania, che è altrettanto vecchio, che risale non solamente al secolo scorso, ma che dispone anche di radici greche. Abbiamo un discorso simile come quello che abbiamo in Cappadocia e abbiamo anche discorsi un po' diversi, ma in una certa maniera comparabili anche alla frontiera tra Paesi Bassi e Germania, perché anche qui ci aveva, all'inizio del romanticismo, c'era una certa questione linguistica rispetto al contatto culturale e alla questione di una comune lingua scritta e così via. E poi anche nei paesi scandinavi. I paesi scandinavi però sono un po' diversi nella maniera che ovviamente la temperatura è più fredda di quella nostra e l'atteggiamento che si riscontra in quei paesi nordici che è meno, non so come dire, meno impetuoso, no? Si è sviluppata recentemente una nuova lingua scritta, la lingua dell'isola del Faroe, staccandosi completamente del modello danese, sviluppando una nuova lingua scritta e così via, senza che, diciamo, problemi politici, ossia problemi culturali, ne sono sorti. Dunque, mi sembra importante pensare, quando anche si parla di tali problemi, al contesto pan-europeo, per così dire, perché le Alpi, da un lato, non sono il solo campo di contatto di diverse culture, di diversi dinamismi, ci sono anche le Pirenei, ci sono anche le regioni nordici, ci sono anche regioni marittime, e questo mi sembra potrebbe aiutare a rendere tutto quel discorso un po' meno arduo, forse, perché quando si pensa a tutta questa produzione scientifica che si riscontra oggi, sicuro che la maniera di trattamento è più pacifica di prima della seconda guerra mondiale, ma sì, ci sono ancora frizioni e certi dissensi che forse potrebbero essere sciolti in una maniera omogenea, più o meno omogenea. Questo. La sua è una domanda che richiede, o è un intervento, o richiede una... È un commento, non è una domanda. No, perché se è una domanda, beh, io direi che personalmente non sono alieno dalla tenere anche in considerazione quella che è la coscienza linguistica del parlante. Perché non è detto che questa sia sempre un fatto extrascientifico. Se questa coscienza linguistica coincide con quello che noi possiamo constatare attraverso un'attenta analisi del sistema, e quindi possiamo identificare in un diasistema, allora direi che questa coscienza è ammissibile. Direi che è ammissibile anche in quella dimensione che oggi è, forse sta un pochino ripiegando, ma che insomma ha avuto il suo momento particolarmente felice con la grammatica generativa trasformazionale, in sostanza, no? Cioè la considerazione psicologica del fatto linguistico, che ha dato poi origine anche alla psicolinguistica, eccetera, eccetera, ha effettivamente il suo valore. Perciò se io ho accennato alla ladinità e in sostanza non sono alieno dall'ammettere anche un'interpretazione dei tre gruppi odierni come eventuali rappresentanti di un gruppo più antico. Con questo lei lo sa benissimo, io sono praticamente in contrasto con tutta quella che è la scuola italiana, che è di opinione diversa. Ciò deriva dal fatto che se noi analizziamo i sistemi come sono, quali sono oggi, no, li possiamo effettivamente ricondurre a un diasistema che è diverso dal diasistema che noi possiamo costruire partendo dalla Padania e andando in giù. Allora, quella coscienza linguistica io la posso recepire come una prova secondaria, marginale, diciamo pure ascientifica, ma qual è il limite poi tra lo scientifico e l'ascientifico? Me lo sono chiesto parecchie volte. E quindi adoperarlo anche ai fini scientifici, ai fini linguistici. In realtà tutta la questione, a parte il fatto che è stata avvelenata da considerazioni nazionalistiche, fortunatamente oggi ce li siamo un pochino buttate dietro le spalle, era anche condizionata dalla metodo. Ascoli è oggi discutibile perché il suo metodo era un metodo praticamente neogrammatico, storico, comparativo. Si trattava di determinare le isoglosse, di vedere dove le isoglosse si accumulavano in un fascio e di dire bene, sopra questo, sotto questo ci sono due entità diverse, in mezzo c'è la famosa zona grigia, no? che partecipa un po' dell'uno, un po' dell'altro. Ora, io non credo che questo sistema sia sufficiente per determinare una entità linguistica. Direi che è necessario, ma non sufficiente per farlo. Deve essere anche sostenuto da quella che è la considerazione sincronica, e se abbiamo la fortuna di poter stabilire i sistemi sincronici successivi, tanto meglio, se no dovremo procedere per ipotesi e colmare le lacune che necessariamente ci sono tra A, B e C da un punto di vista razionale. Una cosa mi chiedo e le rimando la palla, no? Con una domanda a lei, se con il suo metodo di dialettometria possiamo ulteriormente precisare, ulteriormente chiarire questi problemi. No, no. Possiamo scoprire nuovi aspetti, ma non possiamo ulteriormente fare che sia, diciamo, tutta la tipologia matematica è un procedimento con una certa possibilità, niente di più, niente di meno. Si possono enucleare certe strutture e stabilirne la certità con un certo con una certa probabilità che è chiaramente misurabile in forma matematica, si dice 40% di 80-90% eccetera, per cento di probabilità per questo, ma chiaramente una probabilità definitiva, una scissione in territori diversi chiaramente chiaramente individuati non è possibile in questa maniera, ma abbiamo la possibilità di guardare una prospettiva complessiva di un dato campo linguistico. Per esempio, nel mio caso, il campo linguistico comprende tutta la Padana fino all'Appennino, la metà della Toscana, fino al nord verso la catena alpina, ma chiaramente è possibile scegliere qualunque rete linguistico e sottoporlo a un esame dialettometrico del genere. Ma una verità completa, ma mi chiedo se una verità completa c'è. Io non ci credo comunque. Io credo che la ricerca debba essenzialmente creare dei dubbi, non delle certezze, perché se a un certo momento siamo certi di quello che diciamo, allora tutto è finito. Non abbiamo più niente. Non c'è più niente. No, c'era un signore là in fondo. Signor che è. Io volevo ringraziare per l'online per questa lezione di metodologia, soprattutto perché non credo di riuscire a essere più informato. E volevo dire che questa prospettiva di individuazione di una entità culturale stratificata, della individuazione degli strati contenuti, dell'esplicazione delle caratteristiche di ciascuno strato, riferimento delle cose caratteristiche alle situazioni contemporanee, diciamo, che sì, l'interpretazione chiave economica e sociale delle caratteristiche di ciascuno strato, mi sembra che possa poi essere utilizzata e applicata a altri tipi di indagine su altre entità o su altri aspetti delle entità culturali stratificate, delle quali mi interessano più, in particolare all'analisi dei paesaggi storici, che sono sostanzialmente, in termini generali, la stessa cosa. Un paesaggio storico contiene una serie di strati, ciascuno dei quali va individuato, ciascuno dei quali va spiegato nelle sue caratteristiche puntuali, e in questo momento va a spiegare i rapporti che seguono e che concatenano i tratti. Direi che in questo caso si comprova una vostra scienza che la linguistica è per tutte le scienze umane un punto di riferimento come deve essere stato. Ora io le chiederei se è possibile di affrontare un problema, o per meglio dire di spiegarvi ulteriormente un problema che mi si pone proprio quando devo cercare di definire nell'analisi di un paesaggio culturale qual è l'entità culturale, cioè come si individua e come si definisce una entità culturale. Naturalmente quello su magia linguistica chiede a lei, perché non posso chiedere con indicazione ad altri. E tra l'altro ha suggerito di non fare dei riferimenti geografici un dato condizionante, e questo è un discorso che funziona benissimo anche in base alla geografia storica più attuale. Però appunto, come definisce la linguistica una entità culturale senza dare un eccessivo peso ai dati geografici? Beh, non è che la linguistica non dia peso al dato geografico. Facciamo un esempio concreto: quando noi studiamo un toponimo, evidentemente dobbiamo studiarlo in relazione al terreno, in relazione a quello che il nome di luogo significa. L'etimologia del toponimo ha un aspetto formale, diciamo fonetico, e ha un aspetto significativo, intanto in quanto si riferisce o a una caratteristica del terreno, o a un evento storico, o a qualsiasi altra cosa. Quindi questo elemento, diciamo, è un elemento sempre presente, ed è un elemento che condiziona certamente una cultura. Lo dimostra il tipo di costruzione, non so, per restare un pochino più vicino a questo tema, il tipo della casa retica, la cosiddetta casa retica, è un tipo di costruzione che va dalla più remota antichità, perciò la chiamiamo casa retica, fino ad oggi, che noi troviamo nelle nostre valli delle case retiche costruite oggi, il che significa che è un tipo architettonico che risponde a certe necessità che sono necessità ambientali. Chiaro? Quindi non c'è una negazione di questo. A parte il fatto poi che, per esempio, questo tipo di casa retica è così direttamente inserita nel terreno che noi la troviamo anche tale e quale, senza nessuna differenza, nel Caucaso, che significa che le stesse condizioni fisiche determinano delle risposte analoghe nel comportamento, e quindi sono condizionanti della cultura sono importanti nella formazione di una entità culturale nei suoi aspetti materiali. Questo è fuori di dubbio. Che poi quando noi parliamo di un'entità culturale dobbiamo inserire in essa questi aspetti, ma soprattutto gli altri, che sono cioè quelli che in sostanza fanno dell'uomo l'uomo, che in altri termini hanno un valore preminentemente significativo e meno un valore, e quindi un valore funzionale, e meno quindi un significato formale. È una questione di cui dobbiamo tenere conto sia noi che studiamo delle forme e delle organizzazioni di forme in rapporto a una organizzazione di sostanze, ma dovete evidentemente, qui faccio un discorso del tutto completamente da incompetente, vero? Dovete tenerne conto voi, in un certo senso, in un rapporto invertito. Ora, come si... lei dice che la linguistica è un punto di riferimento, il punto centrale per lo studio delle discipline umane. Oh beh, questa funzione l'ha svolta negli ultimi 40 anni, 50 anni. Direi che oggi questo imperialismo linguistico si è molto ridotto. Ma nel caso suo, cioè nello studio di una entità culturale come quella del paesaggio storico, io credo che il dato linguistico sia un dato sussidiario. Ciò che è essenziale, e che del resto è una eredità di una certa linguistica, della linguistica strutturale, è l'applicazione all'interpretazione del paesaggio storico di un metodo che sia un metodo strutturale. In questo paesaggio, quali sono le unità portanti che costituiscono il sistema, la struttura di quel paesaggio? Quali sono i rapporti tra queste entità? E badiamo, possono essere unità essenziali del sistema, tanto su un piano materiale quanto su un piano intellettuale, tanto sul piano della cosa o della parte della cosa, quanto sul piano dell'utilizzazione della cosa. In questo senso, il fondamento del metodo strutturale serve a voi, come serve a noi, come credo serva ai giuristi, come credo serva agli etnologi, eccetera, eccetera, in modo da avere delle analisi e delle descrizioni che siano razionalmente interpretative di quel determinato fatto. Non so se ho risposto in un certo senso alla sua... Sì, la ringrazio molto. Volevo soltanto aggiungere, se possibile, un'altra domanda che concretizza meglio la mia precedente. Quando parlavo di un riferimento geografico attenuato, non intendevo di attenuare l'individuazione dei rapporti tra la società e il suo territorio, ma pensavo piuttosto nella definizione di una entità culturale. Chiaramente c'è una estensione di questa entità culturale. Questa estensione viene individuata soltanto per l'intensità dei fenomeni che sono rappresentati in uno spazio, per cui l'entità culturale occupa quello spazio in cui i fenomeni caratteristici sono più intensi, oppure viene anche identificata in base a confini geografici, come nel caso delle valli alpine. Ma io direi che una entità culturale non è tanto un fatto di quantità quanto un fatto di qualità. È chiaro che ci saranno dei punti di intensificazioni di caratteristiche, dei punti in cui le caratteristiche vanno attenuandosi e quindi preparano o possono preparare un passaggio ad un'altra entità culturale. Oggi come oggi credo che sia pressoché impossibile nel mondo, diciamo, piuttosto anonimo, piuttosto uniforme in cui viviamo, precisare questi passaggi. Noi li possiamo riscontrare ed eventualmente determinare solo sul piano del passato, sul piano storico, sul piano conservativo, sul piano per esempio delle tradizioni popolari. Nel campo delle tradizioni popolari noi abbiamo la possibilità di stabilire delle aree e di stabilire poi eventualmente con il metodo della, che prendiamo dalla linguistica reale, stabilire poi anche dei rapporti cronologici tra un'area seriore e un'area conservatrice, un'area più antica, in questo senso. Beh, adesso sarebbe ora di smettere con i ringraziamenti, se no non stanno più nella borsa. L'archeologo spesso tende a settorializzare la propria ricerca e quindi perde un po' di vista quello che è il quadro globale. E mi sembra che abbia fatto un quadro sintetico, veramente coerente, e mi sembra anche, abbiamo già rilevato in diversi, tenendo presente non soltanto i dati linguistici, ma anche i dati archeologici, storici, eccetera. E quindi di questo penso che possiamo ringraziarlo. Volevo però chiedere qualche precisazione, che può darsi che sia una richiesta che si riallaccia un po' a quella del professor Birbrauer e quindi eventualmente non ha bisogno di risposta, perché cioè lei ha detto il mio discorso è tutto metodologico e non analitico. Volevo dire questo, lei ha parlato all'interno di questa stratificazione alpina, di questa unità alpina, del appunto dei nuovi apporti, dei nuovi arrivi, quale ovviamente la romanizzazione e poi la germanizzazione. Lei parla di una sovrapposizione piuttosto pacifica, lenta, sia da parte diciamo romana, sia da parte germanica, le popolazioni germaniche. Volevo chiederle questo, questa sua affermazione, davvero lei ha parlato proprio di latinizzazione più che non di romanizzazione. E penso che questo indichi proprio il fatto che diceva non una presenza diciamo delle armi romane fin dall'inizio, ma piuttosto una penetrazione. Beh, le armi ci sono state perché la guerra retica è un fatto indiscutibile. Ecco, è piuttosto feroce. Questa sua affermazione deriva da una così, analisi di dati archeologici, di storici, da quanto già ne possediamo, o gli viene data anche offerta questa conclusione dai dati strettamente linguistici? Ossia, la linguistica può in questo senso verificare se si tratta di sovrapposizioni veloci, immediate, dovute all'intervento diciamo così, armato, o può dare, o viceversa può indicare se questa penetrazione è stata lenta, cioè è uno strumento per capirlo questo o no? Non può dare una risposta di questo genere? No, direi che in questo caso ci aiuta di più l'archeologia, ci aiutano di più i dati di fatto, che io ho saltato tutti perché sennò l'esposizione sarebbe durata un granché, ma che poi naturalmente lascio nella redazione finale. Se noi consideriamo i dati archeologici della zona, noi troviamo un progressivo incremento diciamo dal mesolitico fino alla vigilia della conquista romana. I dati dei reperti romani sono sì molto significativi, però per se stessi, almeno a mio avviso, non dimostrano una penetrazione molto profonda. In altri termini, questo processo di latinizzazione mi sembra, e i dati linguistici sono abbastanza evidenti, mi sembra che sia stata non solo seriore, tarda, ma anche poco profonda, sia stata una, e questo spiega anche la facilità, diciamo pure la tranquillità con cui in tutta la zona la latinizzazione è scomparsa, tranne là dove le condizioni, in questo caso le condizioni fisiche, le condizioni del terreno, la vita attiva che si conduceva, fermavano certi processi. In questo senso. Però io credo che in questo caso la voce sia più al dato archeologico che non al dato linguistico. Abbiamo passato di un quarto d'ora la data prefissata, quindi ringraziando ancora l'amico Heimann. scusami se ti devo ringraziare, ma no, è necessario. Tu ringraziami, ma io voglio invece, scusa. Direi di andare a prendere il caffè. Ecco, io però volevo prima scusarmi se vi ho annoiato troppo a lungo. Piuttosto, siccome abbiamo tempo, perché dobbiamo andare a pranzo alla 1:15, mi pare, è vero? Quindi ci sono 2 ore. Dopo questo respiro di caffè, io darei lettura della relazione di Bernareggi. Tanto così, intanto siamo qua. Un momentino per favore. Ecco. Für die Eltern.